Una mostra concepita appositamente per lo spazio, anche se le opere sono databili dagli anni 80 ad oggi, però sono tutte scelte o realizzate appositamente in stretta relazione con l'ambiente architettonico che le ospita. Sostanzialmente è una mostra divisa in quattro ambienti. Quello dove ci troviamo, che è il corridoio esterno, il porticato esterno al palazzo, quindi un ambiente semi aperto, semi chiuso, che dir si voglia, con un rapporto diretto quindi con la luce solare oltre che con quella artificiale. È un corridoio, uno spazio quindi dedicato a raccogliere opere che hanno a che vedere molto con lo spazio architettonico. Sono per lo più progetti che ambiscono alcuni a diventare opere pubbliche vere e proprie, alcune invece sono state effettivamente realizzate. E poi si affaccia qui sul corridoio esterno tre stanze più piccole che sono state restaurate e si aprono oggi per la prima volta al pubblico, ed è straordinario il fatto che contenessero un tempo l'archivio del palazzo, delle attività del palazzo, dei progetti eccetera eccetera, e poi sono state dismesse da questo uso e oggi per un po' di mesi durante la mostra ospiteranno un progetto che ho sul mio archivio, quindi c'è in forma di scultura in cui si propongono anche con tre acquerelli e modelli un possibile sviluppo futuro nel tempo e nello spazio. Poi c'è la grande sala del camino, dove c'è una grande installazione che mi piace pensare sia sempre stata qui, e altre tre stanze dove si raccolgono invece opere a parete, acquerelli, preparatori o quadri che ho raccolto da quelli che ho realizzato in questi ultimi anni. Quindi c'è una stretta relazione fra spazio e opere, dove però si tratta di una convivenza più che di una sopraffazione dell'uno sull'altro, diciamo. Quindi le opere dialogano con lo spazio valorizzandolo, ma a loro volta si valorizzano dello spazio stesso. Quindi alcune sembravano fatte apposta, esatto, per questo posto, e altre è il posto che ha esaltato, esatto, le sue opere. Esatto, perché si tratta di uno spazio che mette, diciamolo francamente, è uno spazio che è esattamente l'opposto di quelli utilizzati normalmente per l'arte contemporanea, cioè l'opposto di un white cube. No, è uno spazio tutt'altro che indifferente, è uno spazio realizzato peraltro anche da grandissimi architetti del passato, quindi ho, come dire, godo di questo rapporto e cerco di essere all'altezza di questi grandi visionari del passato. La ringrazio molto. Grazie.